Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti, chi ama e chi non ama il pesce, perché oggi parleremo soprattutto di pesce e ovviamente parleremo anche di telline, ma non tanto quanto appunto il provvedimento che ha colpito le telline, ma allargheremo, diciamo, questo discorso ai tanti provvedimenti che bloccano molti pesci, la pesca di molti pesci. E allora viene da chiedersi, certo, bisogna salvaguardare il mare, ma la cucina sicuramente ne esce molto male da questa vicenda, nel senso che sempre meno troveremo del buon pesce per friggere, per mangiare arrosto, in tantissime maniere. Quindi diciamo che c'è un grande dilemma su questo. E allora, numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Cosa ne pensate, cari radioascoltatori? Intervenite anche noi. Noi ora cominceremo con i nostri ospiti e comincio con il patron di un ristorante di Riccione molto noto che si chiama Azzurra, dove si mangia esclusivamente pesce, uno attento che compra pesce un po' in tutta Italia. Buongiorno a Maurizio Signorini. Buongiorno Davide, buongiorno. Buongiorno Maurizio, allora che succede? Queste limitazioni, voi ne risentite come, diciamo, come specializzati nel pesce? Avete sempre più di difficoltà nel trovare ottimo pesce, oppure così ci sono molti bracconieri, c'è molto pesca di frodo? Beh, questa è una mia battuta che poi sulla quale torneremo, perché io sono convinto che molti divieti poi portano a questo. E Maurizio, c'è sempre più difficoltà a trovare del buon pesce? Sì, c'è sempre molta difficoltà, perché già questo pesce era un pesce difficile da trovare a prezzi, direi, non cari ma carissimi. In questo momento, giustamente come hai detto tu, poi nascono le cose sotto banco, che poi è tutto un, diciamo, il gatto che si morde la coda, perché poi dopo controlli, l'abusi lì, questo non si può, entrano capitanei di porto con il calibro a misurare il pesce o le misure dei pesci, e quindi diciamo entriamo in un circuito dove non riusciamo più. Io penso che un ristorante dei nostri livelli, togliendo questi tipi di piatti, è come far correre Valentino Rossi con una moto a batteria. Bene, buona questa battuta, rimani con noi. Ora abbiamo, veramente, abbiamo parlato di telline, tutti hanno parlato delle telline in questi giorni, ma forse nessuno si è accorto che proprio in questi giorni era in atto la sagra delle telline a Passo Scuro, un comune di Fiumicino in provincia di Roma. E abbiamo con noi Antonella Rossi, che è la presidentessa della Proloco, appunto, di questa frazione, perché credo sia una frazione. Buongiorno signora Rossi. Buongiorno a voi. Beh, sarà stata una festa un po' triste. Beh, no, avevamo questo problema di avere notizie di come sarebbero andate le cose, però la festa è andata bene lo stesso, perché la popolazione aspettava questo, ormai è la tradizione delle nostre località. Ecco, ma lei cosa ne pensa di questo divieto? Dalla parte penso che qualche provvedimento bisognerebbe prenderlo, ma non riguardo ai nostri, diciamo, tellinari che vanno con il rastrello, ma bensì a quelle turbosoffianti che quando passano portano via tutto, sia quelle, anche quelle piccoline, e quindi creano dei problemi. Ecco, mi spiega queste turbosoffianti, ha detto, quindi una pesca che è vietata? Dovrebbe essere vietata, credo, però la fanno lo stesso. Ecco, quindi lei dice che questo provvedimento può impedire questo tipo di pesca ancor più, visto che si va a 500 metri dalla costa? Certo, certamente. Quindi... Però da noi ci sono soltanto i pescatori che fanno col rastrello, quindi dovrebbero regolamentare questa pesca. Ecco, quindi qui abbiamo già così individuato un bubone che non era emerso, le termosoffianti. Senta, Rossi, a quanto vanno le telline in questo momento? Quanto andavano i giorni della sagra le telline al chilo? Fatte a mano così anche 15 euro al chilo. Ho capito. E Maurizio Signorini, a quanto vanno invece, diciamo, comprate da un ristoratore che ovviamente deve trovare un fornitore di queste? In Adriatico bisogna scendere molto per trovare le telline. Esatto, bisogna scendere e le telline arrivano anche alle 22, 23, 24 euro. Bene, sentiamo Michele da Lecce, un radioascoltatore. Buongiorno Michele. Sì, buongiorno. Io ho seguito non conosco approfonditamente cosa prevede il decreto legge, però sostanzialmente mi trovo d'accordo, in quanto secondo me la cucina poi italiana, non tutta, ma quella che si occupa di pesce, va soprattutto sulle specie più facili e più, come devo dire, non ci si impegna a cercare di diversificare sul pesce povero, su un tipo di raccolta anche di pesca non fatta in maniera massiva, no? A questo punto si può fare un collegamento anche con l'agricoltura intensiva, che crea soltanto dei disastri, anche se purtroppo è necessaria. E sono d'accordo anche con quello che diceva la signora prima, questo tipo di pesca che distrugge completamente tutto, no, dobbiamo metterci d'accordo. O cerchiamo, siamo nei prossimi 20 anni, e il nostro territorio probabilmente diventerà mira di come devo dire, mete turistiche sempre più forti. Noi dobbiamo cercare di tutelarlo al massimo. Tutelarlo al massimo significa cercare di trovare la giusta dimensione tra una pesca, diciamo così, più equa e anche la soddisfazione di quelle che sono le esigenze dei ristoratori, che possono anche, visto che gli chef abbiamo dei chef creativi più bravi del mondo, possono anche orientarsi sulla proposizione di alcuni piatti più particolari. Michele, lei ha toccato un tasto importante che poi affronteremo con Beppe Gallina, che ha una pescheria a Torino, questo appunto della scarsità di conoscenza degli italiani dei pesci. Bene, sento Aldo dalla provincia di Roma, buongiorno Aldo. Buongiorno Davide, io sono dalla provincia di Padova. Bene. Letizia a Due Canali. Senti una cosa, ha ragione il signore che ha parlato prima, non sono riuscito a capire chi era, perché dicendo che un ristorante come il mio, che fa esclusivamente pesce, siamo penalizzati da morire, però questa secondo me è una legge inutile, perché il mercato di certi pesci, io ho pagato i calamaretti nostrani, 45 euro al chilo. Di conseguenza c'è già una selezione, non è che vengano pescati quintali di calamaretti. Le telline le ho comprate ieri mattina, telline di grado, a 25 euro il chilo. Non è che la massaia vada al mercato e compra quintali di telline. Però questo è fondamentale per i ristoranti come il nostro, che fanno di certi prodotti, del moscardino, della tellina, del calamaretto nostrano, della canocchia, dello scampo piccolo da servire crudo, fanno una ragione di vita. Noi non possiamo, adesso vengono praticamente favoriti i mercati esteri. Bene. Vengono favoriti tutte queste cose, ma il mercato è già selezionato, perché certi prodotti al mercato ce ne sono due cassettine. Bene. Non credo che due cassettine di calamaretti vanno a rovinare il mare. E abbiamo con noi Beppe Gallina è autore del libro Banco numero 2, che credo che sia il suo banco al mercato di Torino, un bellissimo libro che appunto parla di pesce, parla delle specie di pesce. Buongiorno Gallina. Buongiorno a voi. Allora, ricordo comunque il numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Gallina, e la domanda che le faccio, lei che ha un quindi che ha un banco che vede il consumatore continuamente, è vero che il consumatore italiano conosce pochissime specie e quindi non allarga così la domanda che fa ogni giorno nei mercati, facendo crescere ovviamente il prezzo dei pesci pregiati e limitando anche sicuramente la possibilità ad altri pesci di essere presenti? No, il consumatore italiano in base al posto dove va a comprare ha della conoscenza o non ha della conoscenza. Se parliamo della mia pescheria o di pescherie specializzate, il consumatore italiano si è molto avvicinato negli ultimi tempi a un certo tipo di cucina e ricerca certi piatti particolari. Sicuramente io sono favorevole al fatto di queste nuove normative europee, questo sì. Ecco, lei dice quindi che conosce, cioè ormai il suo consumatore, ecco, cerchiamo di precisare, il suo consumatore conosce bene le varietà e quindi non chiede le solite 7, 8, 10 che vengono richieste sugli altri mercati. No, io non le ho quasi neanche più sul banco, cioè io cerco proprio di portare questi prodotti particolari, come sentivo prima i vostri interventi, di cucine particolari. Io servo dei ristoranti sui quali in questo momento abbiamo discusso di questi problemi, però sicuramente ne avremo per un anno e mezzo, due anni, avremo delle ripercussioni, poi sicuramente dopo andrà meglio per tutti. Il fatto è che io non proibirei così tassativamente il tutto, ma darei delle stagionalità di pesca, quindi cercherei di, se fossi io che faccio la legge, cercherei di fare una cosa tipo come si è fatta per esempio per i bianchetti. Ecco, rimanga con noi Manuela da Torino, buongiorno, una radioascoltatrice. Buongiorno, innanzitutto complimenti per la vostra trasmissione. Io avrei una domanda per quanto riguarda il tonno rosso. Io sono originaria siciliana, quindi ho una vera passione per i pesci e per la buona cucina. Volevo sapere, questo divieto poi alla fine è una cosa che penalizza solo noi italiani? Perché mi pare che sui mercati giapponesi comunque il tonno rosso sia presente e abbia delle altissime quotazioni. Cioè questo divieto alla fine è fatto soltanto per noi europei. Dunque il tonno rosso è fatto laddove c'è, quindi prevalentemente nel Mediterraneo, in tutto il Mediterraneo, e dal 18 di maggio appunto le tonnare volanti non possono più pescare e le tonnare tradizionali hanno dei limiti di pesca. In Giappone è una cosa molto diversa, a parte che quasi tutto il pesce rosso che viene, il tonno rosso che viene pescato diciamo nel Mediterraneo finisce nel mercato importante di Tokyo, perché viene molto pagato, molto di più di quanto non possa così ottenere sui mercati europei. Certo, i limiti ci sono, c'è chi li rispetta e chi non li rispetta. C'è chi pesca pesce prima, poi lo mette sul mercato nei momenti in cui la pesca è vietata, ovviamente lucrando degli ottimi prezzi. Bene, abbiamo con noi, oltre Beppe Gallina, anche Amelio Fantoni. Amelio Fantoni è un ristoratore di Viareggio, dove le telline bene sono ben presenti, ma è anche diciamo presidente di un'organizzazione, di un gruppo che si è formato a Viareggio appunto per un discorso che riguarda la pesca e la difesa della pesca. Buongiorno Amelio Fantoni. Tony. Buongiorno Paolini. Allora mi dice un po' cos'è alla ricerca del pesce perduto, mi sembra sia il vostro slogan. Sì, diciamo un appello dimenticato. Ora, noi da tempo usiamo tutti i pesci, perché io credo che il problema dei pescatori non sia quello delle reti più larghe o meno, anzi secondo me dovrebbero allargarle ancora di più. Il loro problema è quello di usarlo tutto. Cioè di usare che la gente compri tutto quello che loro usano, questa è la vecchia storia. Uno dei grossi problemi, perché la gente non conosce il pesce, prima perché non c'è parte di tradizione, il discorso sarebbe abbastanza lungo, perché le nostre tradizioni sono prettamente contadine. Il problema è che il pesce, oltre a quello canonico, la gente non sa come cucinarlo. Perché uno dei grossi problemi non è a dire la gente prende quel tipo di pesce e poi dice come lo faccio? Ora noi da tempo cos'è che facciamo? Prima di tutto è una cooperativa che si chiama Peschi in Tavola e io rappresento anche un comitato di liberazione dei cuochi dal mestiere, non sorrida, ma nel senso in cui la conoscenza sopperisce al mestiere. Noi facciamo scuola di cucina in piazza, dove andiamo a far vedere alla gente quel famoso pesce dimenticato che la gente non conosce. Ecco, ci faccia qualche nome di pesce dimenticato. Ma allora, le mustelle, gli stocchi, tutto, sono pesci di fondale. Per esempio la sciabola, che è un pesce stupendo, la razza, che sono pesci che fra le altre cose magari vengono usati ma vengono relegati a zuppe, a cose del genere. In realtà sono pesci estremamente che vanno bene come gli altri, anzi tutt'altro, oltretutto vivendo in profondità mangiano solo pesca vive, perciò di conseguenza sono migliori. Quanto costano rispetto ai grandi pesci questo? C'è un differenziale molto importante di prezzo al chilo? Sì, c'è il chilo. Addirittura quelle poche volte che riescono a portarle con qualche cassa la tengono sulla barca perché la usano come muccigna. La muccigna sarebbe quel pesce che danno ai marinai o fanno i regali a qualcuno, al meccanico. Non costano niente, addirittura 5 euro la cassa, ma si parla di 7-8 chili. E questa è una verità. Io però voglio dire una cosa: qual è la ragione per cui non si conosce il pesce? I pescatori devono comunque anche loro investire sulla propria attività, fare della promozione, perché in realtà tutto sommato non è che nessuno, è una scelta che hanno fatto di vita, perciò io se propongo il mio prodotto loro lo devono proporre e promuovere. Il problema grosso non è di tutti dicono vanno usati, ma poi alla fine dice come si usa questo pesce? Perché è brutto, viene relegato a zuppa, in realtà si può fare come il branzino. È una questione di conoscenza. Allora, mi ripeto, andando a giro nelle piazze, facciamo vedere alla gente come si pulisce, come si cucina in maniera semplice, e non solo, che è la cosa più importante, come si utilizzano gli scarti, che il pesce ne ha tantissimo, Siamo al 50-60%. Bene Amelio, ora numero verde 800-24-00-24, chi vuole intervenire. Torniamo a Beppe Gallina a Torino. Volevo chiederle, Gallina, ci dice 4-5 pesci che vengono maggiormente richiesti nel suo banco? Beh, ultimamente ultimamente io adotto molto, cioè ho sentito adesso la parte intervista di questo signore che ha appena parlato, sul mio banco anch'io ho cercato di diversificare il prodotto e di far conoscere dei prodotti nuovi. Oggi come oggi, per esempio, molti miei clienti si sono abituati al consumo del pesce lama, consumano anche loro le mostelle, che le facciamo andare al posto dei naselli, quindi le usiamo per farle cucinare nello stesso modo. Quello che va molto sono comunque sempre dei moscardini, però moscardini grossi, quindi abbiamo insegnato alla gente che pelandoli e lavorandoli in certa maniera si può ottenere un prodotto eccezionale uguale. Polipi di sicuro, polipi ne facciamo un largo consumo, e poi abbiamo inserito, per il problema del tonno fuori stagionalità per esempio, abbiamo portato la gente a consumare le palamiti. Senta Gallina, dopo questo divieto sulle telline di cui i giornali, i media ne hanno parlato, la televisione, avete avuto molte richieste di telline? No, anche perché, le ripeto, io ho veramente una clientela particolare. Certo. Loro sanno che da me non le trovano, cioè io sono molto rigoroso su queste cose, non mi interessa, cioè ho un rispetto talmente alto per il mare che parlarmene adesso sarebbe come sentirsi dire no, tanto io non ci sono e per adesso va bene così. Bene, grazie a Beppe Gallina, autore del libro Banco numero 2 a Torino, quindi nel mercato di Torino di Porta Palazzo troverete il suo banco. Amelio Fantoni, lei cosa ne pensa di questo divieto sulle telline? Ma guardi, le telline secondo me hanno fatto bene laddove usano un sistema purtroppo che non va bene. Noi a Viareggio in Versilia le telline non abbiamo il problema perché continuano a pescarlo con il corastello. Il corastello ovviamente non fanno i danni, è con le idrovore che portano via tutto, perché non solo portano via le azzere, ma portano via anche tutte le, che ne so, i rombi, sogliole, eccetera, portano via ogni cosa, non ci nasce più niente, perché ecco, noi siamo fortunati sotto questo aspetto. Un radioascoltatore mi chiede per SMS se esiste un ricettario con il pesce dimenticato, per il pesce dimenticato. Bene, guardi, noi avevamo fatto, perché io sono il promotore del pesce dimenticato, avevamo fatto un libricino dove c'erano le ricette, ma più che altro, più che la ricetta in sé che serve a poco, è come si usa il pesce, in senso, è un approccio nei confronti del pesce. Perciò la conoscenza del pesce determina poi come viene fatto, ma questo non vuol dire che dobbiamo essere grandi chef, nella maniera più semplice assoluta. Bene, sentiamo un radioascoltatore, Gian da Milano. Buongiorno Gian. Buongiorno, io sempre pulisco il pesce a casa mia e mi capita di frequente di dover gettare via alcuni pesci della stessa qualità degli altri che sono decisamente inaccettabili, vecchi. Nello stesso piatto non può essere un pesce fresco e un pesce vecchio, per cui ai distributori, se mi permette, dico di non fare l'orrore e l'errore di mettere assieme pesci vecchi con triglie fresche, triglie vecchie e triglie fresche. Quando si va in un ristorante o da terzi e nello stesso piatto ci sono pesci della stessa qualità e dimensione, però uno fresco e uno vecchio, questo è un errore, uno non mangia più pesci, non fate più questo errore. Bene, bene, grazie il suo, diciamo, il suo appello, vediamo se lo raccoglie qualcuno che ci spiega se succede veramente così. Ma visto che prima è stato accennato un argomento abbastanza importante, che è quello che i divieti portano anche a molto pesce straniero che pescato all'estero che arriva in Italia, e devo dire che ogni estate vediamo scandali molto grossi come l'anno scorso, quello delle cozze, poi quello delle aragoste, quindi importazioni in molte case sicuramente non controllate. Allora io voglio chiedere a Luigi Giannini, direttore della Federpesca, cosa ne pensa, ci sono sufficienti controlli al pesce che arriva dall'estero e questo può danneggiare il pesce italiano? Ma io direi che il livello dei controlli è sicuramente adeguato. Direi che il mercato italiano necessita di un apporto di prodotto proveniente dall'importazione, perché evidentemente la produzione nazionale non copre a malapena un terzo del fabbisogno del nostro mercato, compresa la produzione in acquacoltura. È evidente che delle importazioni abbiamo bisogno, di importazioni ovviamente di buon pesce adatto alle tavole degli italiani, prodotto direi con assoluta attenzione a livello di qualità, di salubrità del prodotto. E direi anche diciamo, con attenzione rispetto all'ambiente marino in cui viene pescato. Ma non le pare che ci siano troppi scandali durante le estati in questo paese per quanto riguarda il pesce? Accade spesso, a volte c'è anche un po' di speculazione da parte di altri comparti dell'agroalimentare, quindi diciamo c'è un po' di concorrenza anche sulla comunicazione. Il pesce che si mangia normalmente in Italia è sicuramente di buona qualità, tanto quello prodotto nel nostro paese e soprattutto quello, anche tanto pesce di importazione. A volte però capita che i comportamenti scorretti da parte di produttori, importatori e commercianti determinano la possibilità di scandalo che a volte si sentiamo Adele, una radioascoltatrice della provincia di Grosseto. Buongiorno Adele. Buongiorno Davide, grazie per la trasmissione soprattutto e complimenti. Dunque, io mi ricollego a quello che diceva il pescatore che ho ascoltato prima di chiamare. Diceva di rivolgersi ad altri pesci che nei ristoranti non esistono. Io sono sul mare, io cucino soltanto il pesce più sconosciuto. Per esempio, la tracina. Sì. È fantastica, ha una polpa meravigliosa. Poi il pesce, come l'ha chiamato quello che è lungo e stretto a striscia, spatola, che chiamano il pesce lancia. E sono pesci che si cucinano in tutti i modi. Io addirittura per far prima li cucino lessi e poi li condisco con un sughetto fatto di olio extravergine, un po' di peperoncino. Bene. Grazie Adele, abbiamo già avuto due indicazioni, abbiamo molti radioascoltatori, mi scuso in linea, devo passare anche ad altri la parola. Abbiamo capito che appunto si può sicuramente cucinare pesce non caro e quindi anche poco conosciuto, ma io chiedo a Romano Franceschini del ristorante Romano di Viareggio, che sicuramente è uno delle cattedrali del pesce in Versilia, se è vero che i ristoratori promuovono e quindi cucinano pesci poco conosciuti. Buongiorno. Buongiorno Romano, hai capito cosa volevo dire? Sì, sì, ho capito. Beh, è un po' di tempo che cerchiamo di fare questi pesci poco conosciuti, come qui a Viareggio ce n'è tanti, non so, anche la zuppa di pesce, il cacciucco nostro, fa parte di quel pesce un po' come la tracina, il grongo, la gallinella, poi anche i polpi, insomma, sono pesci conosciuti, ma però che non vanno molto sulle tavole, specie anche in casa. Ecco, ma un ristoratore li promuove questi pesci? Cioè voi cercate? Noi sì, tanto. Mettiamo il sugarello, poi il pesce prete, insomma tanti pesci che cerchiamo di... Il sugarello nel crudo, quando si fa questo piatto importante di pesce crudo, il sugarello non manca mai. Bene, il sugarello infatti è uno dei pesci sicuramente più sconosciuti che ci siano in questo paese, è un pesce azzurro. Sentiamo Antonio dalla provincia di Foggia. Buongiorno Antonio. Buongiorno, guardi, volevo ribattere a un vostro ascoltatore. Il problema del pesce di importazione di misure inferiore alle norme di rispetto credo che non ci debba essere, perché c'è il divieto per la pesca di determinate misure di pesce come i calamaretti, i moscardini e le vongole, ma il problema è che c'è anche il divieto di commercializzare questi prodotti, quindi credo che il problema sia esaurito già con questa legge, perché non si possono pescare, non si possono neanche vendere, quindi anche se viene dall'estero, alcuni prodotti di misure inferiori non possono essere comunque commercializzati. Ho capito. Bene, grazie Antonio per questa precisazione. Sentiamo Mauro dalla provincia di Roma. Buongiorno Mauro. Buongiorno Davide, io chiamo Anzio, siamo sul Tirreno, abbiamo una sorta di pescherecci abbastanza importante. E come pesci, come parlava quel signore di prima che ha nominato il pesce sciabola, cioè i pesci dimenticati, noi non l'abbiamo mai dimenticata, qui se la fanno anche un pochino pagare ed è eccellente da fare alla cacciatora in bianco. Io ho un pastificio e la uso per fare i ravioli. E niente, volevo dire che beh, è un pesce eccellente, ci sono tra i dimenticati da noi gavaglioni che una volta li trovavi nelle cassette a 5 euro dei marinai tra la mazzama, come la chiamiamo noi qui. Adesso invece i gavaglioni li fanno quotare all'asta e quindi costa. La minestra di pesce sono eccellenti. Bene, grazie Mauro. Sentiamo Gianni da Lecco. Buongiorno Gianni. Sì, buongiorno. Volevo chiedere se mi aiutavate come cucinare il tonno palamita, che ne ho ancora un paio congelatori presi da un pescatore. Ma guardi, non è tonno palamita, la palamita è un pesce a sé stante, quindi diciamo può essere succedaneo del tonno, ma è un pesce a sé stante. Chiediamolo a Romano Franceschini. Romano, come possiamo aiutare questo radioascoltatore? La palamita come si può cucinare? Beh, la palamita è molto buono anche crudo, ora in quel caso lì quel signore lì ha detto che ce l'ha già congelato, sì. E allora forse non lo so se può andare bene, comunque è un pesce molto buono che si avvicina molto al tonno e cotture limitate, insomma, con un po' di pomodoro, così può andare molto bene. Bene, grazie a Romano Franceschini. Allora ricordo il numero verde 800 24 00 24. Torniamo a Luigi Giannini, gli voglio chiedere questo: cosa ne pensa di questi divieti, prima il tonno e poi le telline e semplicemente, ma non ci sono le seppie su questo divieto a quanto mi risulta, vero Giannini? Ma in realtà il divieto riguarda misure tecniche, nuove misure tecniche che disciplinano l'attività di pesca. Questo comporta quindi che talune specie rischiano di non poter essere pescate. Quindi il divieto non è sulla specie, ma è soltanto sull'attrezzatura di pesca impiegata. Quello che è grave, è stato però colto direi molto bene da una radioascoltatrice, è che i divieti si applichino solo ed esclusivamente ai cittadini pescatori europei, quelli cioè che sono destinatari delle norme europee, mentre intere flotte nel Mediterraneo continuano ad utilizzare le attrezzature e gli strumenti di pesca che vogliono, in totale spregio per l'ambiente e in più riversando la loro produzione sul mercato italiano, sul mercato europeo in generale, ma il mercato italiano è uno tra i più appetiti. Quindi la finalità che l'Unione Europea si prefigge, quella di migliorare la condizione degli stock ittici nel Mediterraneo, è parzialmente, direi, ma molto parzialmente vanificata, visto che il prelievo da parte delle flotte europee, cioè delle flotte dell'Unione Europea nel Mediterraneo, non supera il 50% del totale delle catture. Quindi non solo paesi rivieraschi del Mediterraneo, ma flotte che provengono anche dall'Estremo Oriente entrano indisturbate nel nostro mare, pescano quello che vogliono con le modalità che preferiscono e quindi direi con tecniche molto meno selettive, con regole molto meno rigorose rispetto a quelle imposte dall'Unione Europea in più poi, e questo voglio dire è la beffa che si unisce al danno, riversano le loro produzioni sui nostri mercati. Allora ecco, questo è per noi assolutamente inaccettabile. Noi chiediamo che l'Unione Europea e magari su sollecitazione del nostro governo si faccia carico di indire una conferenza diplomatica immediatamente per allargare il sistema delle regole a tutti coloro i quali operano all'interno del bacino mediterraneo. L'ultima iniziativa in questo senso risale al 2003 ad opera del loro sottosegretario alla pesca Scarpa Bonazza Buora e dette una importante accelerazione all'unico ente che disciplina questa. Grazie Giannini, grazie. Bene, ora andiamo nel mare di Sicilia, andiamo a Lettoianni, andiamo da Giovanni Ardizzone del ristorante Nino, super specializzato in pesce. Buongiorno Giovanni. Buongiorno signor Paolini. Giovanni, quali sono i pesci più richiesti nel suo ristorante? Guardi, calamaretto è il piatto più importante, che appena arrivano vogliono subito calamaretti o franceschini o coppolelle, che hanno tre denominazioni. Poi la polpettina di neonata, che era una cosa ricercata, che arrivano da tutto il mondo e che la chiedono perché noi la chiamiamo neonata, ma la chiamano gianchetti, uomini nudi, eccetera. Però noi abbiamo visto che per noi ecco, ci non sono... è una cosa bella, è come se ci è arrivato, diciamo, questo fulmine a ciel sereno, ci ha privato di questi prodotti e noi è uguale, diciamo, che perdiamo la storia della cultura siciliana. Per quindi noi... lei si sta riferendo alle telline e ai cannolicchi? La telline, i cannolicchi stessi. Io, guardi, quest'anno proprio mi ero inventato questo piatto, telline, vongole femminelli che li prendevo nel lago di Canziri, vongole veraci e pomodorini secchi. Avevo cominciato a fare questo successo e mi è arrivato subito questa notizia che non si pescano più. Ma si possono pescare oltre i 500 metri dalla costa, si possono pescare come? E chi ci va? E quindi questo è il punto, lei dice? Questo è chi ci va, signor Paolini, chi ci va a pescare a 500 dalla costa qua? Chi ci va? I costi sono superiori al prezzo che poi uno paga. Ecco, questo quindi è un problema basilare. Senta, quindi sono sparite dal mercato da voi? Ma guardi, lei sa benissimo il provvisionismo che c'era nei tempi passati e c'è pure adesso. Quando una cosa è proibita, certo, è alla ricerca di questo prodotto. L'avevo detto anch'io all'inizio, sì. Perciò bisogna regolamentare, perché non bisogna. Noi abbiamo una cultura siciliana di tutti questi prodotti. Automaticamente quando li proibiscono la gente li cerca. È come Ricci. I ricci l'hanno proibito, ma la gente cerca sempre la pasta con i ricci. Certo. Questo è. Il proibito è quello che tira, Giovanni, è così, ha ragione lei. Grazie a Giovanni Ardizzone. Grazie. Sentiamo Lorenzo Paolini, arrivederci. Lorenzo da Roma, buongiorno Lorenzo. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Mi dica. Senta, io desideravo sapere se quei prodotti tipici delle regioni, tipo la Calabria, la sardella, spariranno o sono a forte rischio di estinzione? Bah, questo se sono a forte rischio di estinzione io sinceramente non glielo so dire. Ora vediamo se qualche nostro ospite ci potrà parlare di questo, ma credo che le sardelle non siano proprio in sparizione. Sentiamo, abbiamo con noi Enzo Fornaro, che è presidente della Federcop Pesca Veneto. Buongiorno Fornaro. Buongiorno. Senta, vongole ed altro non sono toccate da questo provvedimento, se non erro, quindi voi siete grandi produttori di vongole. Ma il problema di fondo però è che questo regolamento di fatto impatta su moltissime risorse, sicuramente non sulle sardine, sicuramente non sulle alici, però per tutto quello che si sviluppa ed è stanziale lungo la costa ci sono dei problemi. Le stesse vongole hanno bisogno di... è stata chiesta una deroga, tra l'altro prevista come possibilità. Ma i cannolicchi, ad esempio, che sono proprio a ridosso delle marine, come facciamo a pescarli? Cioè, l'impatto di questo regolamento è veramente straordinario, non è stato considerato fino in fondo. Quindi lei dice non è tecnicamente messo, cioè fatto bene, insomma, questo è il punto? E il punto è questo, che cioè, come al solito viene elaborato un regolamento dopo una serie di confronti, di estenuanti trattative fatte sulla carta. Cioè nessuno poi prova a verificare gli effetti sul campo, noi li stiamo osservando in questi giorni e per questo abbiamo invocato una attività di modifica, di attenuazione di questo regolamento. Bene, grazie Fornaro. Abbiamo con noi un altro bravissimo chef, noto soprattutto per il pesce della Senigallia, abbiamo Mauro Ugliassi. Buongiorno Mauro. Ciao Davide, come stai? Bene, ti rivolgo a una domanda che mi fa un radioascoltatore via SMS. Dice, ma qui si parla sempre di pesci poveri, pesci dimenticati, però al ristorante costano anche questi. Beh, il ristorante costa tutto, perché non è che mangia solamente il pesce, si mangia tutto quello che c'è attorno, il servizio, tutto quello che in un modo o nell'altro serve per organizzare una cucina di livello. In realtà poi il pesce povero... sono i cuochi che lo propongono e cercano di renderlo il più interessante possibile, perché poi in realtà la richiesta quella vera è sempre di scampi, spigole, rombi, rane pescatrici, di pesce pregiati, no? È come chi va a acquistare la carne dal macellaio invece di prendersi tagli meno costosi e che del filetto molto buoni, cercano tutti quanti il filetto e la bistecca o la fiorentina. E qui è una questione di cultura, e sicuramente il cuoco professionista ha questo dovere di invece diffondere, cioè di comunicare che il cibo è buono tutto, purché sia cucinato nel modo giusto e che abbia delle qualità di freschezza. E... Ecco, tu hai qualche pesce, hai qualche piatto a base di telline o di cannolicchi nel tuo menù? Allora, le telline, questa è bellissima come domanda, perché devi tenere presente questo, che noi abbiamo aperto nel 90, già nel 90 le telline sull'Adriatico non esistevano più. Un ricordo di quando io ero ragazzino e ci avrò avuto, che ne so, 7-8 anni, per cui sono almeno 44 anni che non si vede più una tellina qui nel mare Adriatico. I cannolicchi, che invece era pieno, e tu d'estate potevi vedere con la bassa marea centinaia e centinaia per chilometri, persone che tra il bagnasciuga e dove c'era un ginocchio d'acqua si prendevano i cannelli perché erano a riva e se ne prendevano veramente quantitativi giganteschi. Improvvisamente dal 1994 in poi non se ne è visto più uno. Questo perché molto probabilmente le vongolare, con delle tecniche che allora pescavano con delle tecniche di aspirazione, hanno un po' arato tutto quanto il mare Adriatico e hanno creato questo scombussolamento ambientale, per cui di cannolicchi sono 16 anni che non se ne parla, non esistono proprio. Quindi diciamo che sono in via di estinzione, questo è molto preoccupante. Adriatico sono estinti, non è che sono in via di estinzione, adesso è possibile che un paio di chili, se uno se li cerca in 3-4 chilometri di spiaggia di mare basso, può darsi anche che li trova, ma una volta veramente gente se ne portava a casa in un'ora 300-400, ma non è quello che ha depauperato il mare dal cannolicchio, sono state delle tecniche sbagliate di pesca per altre cose, appunto le vongolare quando aspiravano, quando avevano gli aspiratori arrivavano fino in terra e lì portavano via tutto, per cui avannotti e chiaramente poi si è probabile che quello sia stato una parte, poi magari c'era stato anche un habitat cambiato e quindi il cannolicchio comunque in questo momento non si trova e sono un buon 16-17 anni che non si trova più. Bene, grazie a Mauro Uliassi che ci ha dato così questa notizia appunto delle telline nell'Adriatico e dei cannolicchi. Ebbene, devo dire che insomma il quadro non è sicuramente positivo, sempre più ci sono pesci in via d'estinzione e bisogna vedere appunto se questi limiti arrivano troppo tardi, ma sicuramente arrivano troppo tardi e provocheranno sicuramente del contrabbando o della pesca clandestina, perché abbiamo sentito che sicuramente, come ci diceva Ardizzone, quando un qualcosa è vietato sempre di più viene richiesto. Questo è un male italiano ormai noto e diffuso anche in altri settori. Bene, siamo arrivati in fondo a questa trasmissione che non è sicuramente molto molto allegra, appunto per quello che abbiamo sentito che vengono sempre richieste quelle 10 specie e niente più dal consumatore, che sicuramente non c'è appunto grande varietà e questo porta ai prezzi, ad alzare i prezzi di questi pesci sempre più gettonati. Bene, io vi do appuntamento domani con il riposo del guerriero alle 12:15, in replica questa trasmissione viene data questa notte intorno a mezzanotte e ogni giorno con la pillola delle 11:05 e delle 23:05 da lunedì al venerdì. Buon weekend dal gastronauta.